Certo, l'amore che il signor di Guermantes aveva avuto via via per tutte loro ricominciava un giorno o l'altro a farsi sentire. Intanto, morendo, esso le lasciava in eredità come delle belle statue, belle per il duca, diventato parzialmente artista perché le aveva amate, ed era adesso sensibile alla perfezione di linee che non avrebbe apprezzate senza l'amore. Belle statue di cui il salotto della duchessa ospitava, l'una giustapposta all'altra, le forme a lungo nemiche, divorate da gelosie e litigi, e infine riconciliate nella pace dell'amicizia. Poi, quella stessa amicizia era un effetto dell'amore, grazie al quale il signor di Guermantes aveva notato, nelle sue amanti, virtù che esistono in ogni essere umano, ma che solo la voluttà riesce a percepire. Tanto che l'ex amante, trasformata in un'ottima amica, pronta a fare qualsiasi cosa per noi, è un luogo comune, come il medico o il padre, che non è un medico o un padre, ma un amico. In una prima fase, comunque, la donna della quale il signor di Guermantes stava per sbarazzarsi si lagnava, faceva scenate, si mostrava esigente, appariva indiscreta, molesta. Il duca cominciava a prenderla in uggia. A quel punto, Madame de Guermantes aveva agio di mettere in luce i difetti, veri o presunti, di una persona che l'indisponeva. Conosciuta per buona, riceveva le telefonate, le confidenze, le lacrime dell'abbandonata e non se ne lamentava. Ne rideva col marito, poi con qualche intimo, e credendo, con la pietà attestata alla poveretta, di avere acquisito il diritto di trattarla malignamente, anche in sua presenza, qualsiasi cosa dicesse, purché collimasse col carattere ridicolo appena cucitole addosso dal duca e dalla duchessa, Madame de Guermantes non esitava a scambiare col marito sguardi di ironica intesa. Nel frattempo, mettendosi a tavola, la principessa di Parma si ricordò che voleva invitare all'opera Madame de Hendecourt, e poiché desiderava sapere se la cosa non sarebbe dispiaciuta a Madame de Guermantes, cercò di sondarla. In quel momento entrò il signor di Grouchy, il cui treno, a causa di un deragliamento, era rimasto fermo per un'ora. Si scusò alla meglio. Sua moglie, se fosse stata una Courvoisier, sarebbe morta di vergogna. Ma non per niente Madame de Grouchy era una Guermantes. Mentre il marito si scusava del ritardo. «Vedo», disse interrompendolo, «che anche nelle piccole cose essere in ritardo è una tradizione della vostra famiglia». «Sedetevi, Grouchy, e non lasciatevi smontare», lo incoraggiò il duca. «Pur essendo d'accordo col mio tempo, sono costretto ad ammettere che la battaglia di Waterloo ha avuto del buono, perché ha consentito la restaurazione dei Borboni e, meglio ancora, in un modo che li ha resi impopolari. Ma siete, a quel che vedo, un autentico Nimrod. In effetti ho messo in carniere qualche bel capo. Mi permetterò di mandare domani alla duchessa una dozzina di fagiani». Un'idea parve guizzare negli occhi di Madame de Guermantes. Insisté con il signor di Grouchy che non doveva disturbarsi lui a mandarle i fagiani, e facendo cenno all'acchè fidanzato col quale avevo scambiato due parole lasciando la sala degli Elstir, «Poulain», ordinò, «andrete voi a prendere i fagiani del signor Conte e subito dopo a consegnarli. Mi permettete, non è vero, Grouchy, di fare a mia volta qualche cortesia? Non possiamo mangiare 12 fagiani noi due soli, Bazin e io». «Ma dopo domani sarebbe sufficiente», osservò il signor di Grouchy. «No, preferisco domani», insisté la duchessa. Poulain era sbiancato. Il suo appuntamento con la fidanzata andava a monte. Era quanto bastava la distrazione della duchessa, ben attenta che ogni cosa serbasse un aspetto umano. «So che è il vostro giorno di libertà», disse a Poulain. «Potrete far cambio con Georges. Lui uscirà domani e voi dopodomani». Ma quel giorno la fidanzata di Poulain non sarebbe stata libera e a lui non importava più nulla di uscire. Quando Poulain lasciò la sala, tutti si complimentarono con la duchessa per la sua bontà con i domestici. Veramente non faccio che trattarli come vorrei essere trattata io. Appunto, possono dire d'essere fortunati a stare in casa vostra. Non esageriamo, ma credo che mi vogliano bene. Questo qui è un po' fastidioso perché è innamorato e si crede in dovere di assumere pose malinconiche. In quel momento Poulain rientrò. In effetti, constatò il signor de Grouchy, non si direbbe proprio che abbia il sorriso facile. Con questa gente bisogna sì essere buoni, ma non troppo. Non sono terribile, lo riconosco. In tutta la giornata dovrà solo andare a prendere i vostri fagiani, starsene qui a far niente e mangiarne la sua parte. In molti vorrebbero essere al suo posto, osservò il signor de Grouchy, giacché l'invidia è cieca. Orian, disse la principessa di Parma, l'altro giorno è venuta a trovarmi vostra cugina de Dincourt, evidentemente una donna di intelligenza superiore, è una Guermante e tanto basta, ma dicono che sia una mala lingua. Il duca posò sulla moglie un lungo sguardo di calcolata stupefazione. Madame de Guermante scoppiò a ridere. La principessa finì con l'accorgersene. Ma forse non siete del mio stesso avviso? Chiese con inquietudine. La principessa è troppo buona, non deve badare alle smorfie di Bazin. Via, Bazin, non fate quella faccia come se voleste insinuare qualcosa contro i nostri parenti. La trova troppo cattiva? Si informò vivacemente la principessa. Oh, niente affatto, replicò la duchessa. Non so che abbia detto a vostra altezza che è una mala lingua. Al contrario, è una creatura di rara bontà. Non ha mai parlato male di nessuno né fatto del male a nessuno. Ah, esclamò sollevata Madame de Par. Infatti non era parso nemmeno a me. Ma siccome so che è difficile tante volte non avere un po' di malizia quando si ha tanto spirito, di quello veramente ne ancora meno. Meno spirito? Chiese la principessa stupefatta. Andiamo, Rian, intervenne il duca in tono lamentoso e lanciando a destra e a manca occhiate divertite. Non avete sentito? La principessa vi dice che è una donna eccezionale. E non lo è. È eccezionalmente grossa, quantomeno. Non dategli retta, signora, non è sincero. Madame d'Endicourt è stupida come un'oca, anzi, come un oco, disse con voce forte e rauca Madame de Guermantes, la quale, molto più vecchia Francia del duca, quando non ci pensava, spesso si sforzava di esserlo, ma in un suo modo opposto al genere decadente tutto merletti del marito, e in realtà assai più sottile, attraverso una sorta di pronuncia quasi contadina che aveva un aspro e delizioso sapore campagnolo. Ma è la più brava donna del mondo, e poi non so nemmeno se a quel livello si possa parlare di stupidità. Penso di non aver mai conosciuto una creatura simile. È un caso interessante per un medico. Ha qualcosa di patologico, è una specie di innocente, di cretina, di ritardata mentale come nei melodrammi o nell'Arlesiana. Mi chiedo sempre, quando è qui, se non sia per caso venuto il momento in cui la sua intelligenza si sveglierà, cosa che fa sempre una certa paura. La principessa si beava di queste espressioni, pur restando stupefatta del verdetto. Mi ha riferito, come Madame d'Épinay, la vostra battuta su Taquin il Superbo. È deliziosa, commentò. Il signor de Guermantes mi spiegò la battuta. Avrei voluto dirgli che suo fratello, il quale sosteneva di non conoscermi, mi aspettava quella sera stessa alle 11, ma non avevo chiesto a Robert se potessi parlare di quell'appuntamento. E poiché il fatto che il signor di Charlieu me l'avesse praticamente fissato era in contraddizione con quanto aveva detto alla duchessa, mi parve più delicato tacere. «Taquin il Superbo non è male», disse il duca. «Ma probabilmente Madame d'Endicourt non vi ha detto nulla di una battuta molto più graziosa che risale all'altro giorno ed era la risposta a un suo invito a colazione». «Oh no, raccontate!» «Andiamo, Bazin, smettetela. Prima di tutto è una battuta stupida. La principessa penserà che io sia ancora più sciocca di quell'oca di mia cugina. Chissà perché poi la chiamo mia cugina. È cugina di Bazin. In qualche modo però è anche mia parente. Oh! Esclamò la principessa di Parma alla sola idea di poter giudicare sciocca Madame de Guermantes e protestando perdutamente che mai nulla avrebbe fatto decadere la duchessa dal rango che occupava nella sua ammirazione. E poi le abbiamo già negato le qualità dello spirito. Dato che la mia battuta tende a disconoscerne alcune del suo cuore, mi sembra francamente inopportuna. Disconoscere inopportuna, con quanta proprietà si esprime, disse il duca con finta ironia, perché tutti ammirassero la duchessa. Via, Bazin, almeno non burlatevi di vostra moglie. Vostra Altezza Reale deve sapere, riprese il duca, che la cugina di Oriana è eccezionale, buona, grossa, tutto quel che si vuole, ma non è precisamente, come dire, prodiga. «Sì, lo so, è molto tirchia», lo interruppe Madame de Parme. «È un'espressione che non mi sarei mai concessa, ma l'avete dipinta a meraviglia. La cosa ha conseguenze sul suo tenore di vita e in particolare sulla sua cucina, che è eccellente ma misurata». «Si verificano anche episodi abbastanza comici», intervenne il signor di Bruté. Un giorno, per esempio, sono stato ospite a Hendicourt, dove, miei cari Oriane e Bazin, eravate attesi anche voi due. Erano in corso preparativi sontuosi quando, nel pomeriggio, un lacchè ha portato un dispaccio con la notizia che non sareste venuti. «Non mi sorprende», commentò la duchessa, che non solo faceva la difficile nell'accettare gli inviti, ma voleva che lo si sapesse. «Vostra cugina legge il telegramma, ne resta desolata, poi, senza perdere tempo, e pensando evidentemente che non valesse la pena di andare sulle spese per un signore di nessuna importanza come me, richiama il lacchè. Dite al cuoco di togliere il pollo dalla casseruola», gli ordina, «e la sera l'ho sentita chiedere al maggiordomo, e allora si può sapere perché non servite gli avanzi del manzo di ieri?» «Del resto bisogna ammettere che da lei ci si ciba alla perfezione», disse il duca, che credeva, usando questa espressione, di mostrarsi ancien régime. «Non conosco casa dove si mangi meglio». «E meno», aggiunse la duchessa. «È molto sano e più che sufficiente per un volgare buzzurro come me», ribatté il duca. «Ci si alza da tavola di buon appetito». «Ah, se la si prende come cura è tutta un'altra cosa. È con ogni evidenza più igienico che fastoso. D'altronde non è poi così sopraffino», puntualizzò Madame de Guermantes, alla quale non andava troppo a genio che si attribuisse il titolo di miglior tavola di Parigi ad una che non fosse la sua. «Mia cugina è come quegli autori stitici che buttano fuori ogni 15 anni una commedia in un atto o in un sonetto. Sono capolavori in miniatura, preziosissimi non nulla. In una parola, ciò che più detesto al mondo. La cucina da Zenaide non è malvagia, ma la si troverebbe più banale se fosse meno parsimoniosa. Ci sono cose che il suo chef fa bene e altre che non azzecca. Sono incappata anche da lei, come dappertutto, in pessimi pranzi. Solo che mi hanno fatto meno male perché lo stomaco, in fondo, risente più della quantità che della qualità». «Insomma, per farla breve», riprese il duca, «Zenaide insisteva perché Oriana andasse da lei a colazione e mia moglie, che non ama molto uscire, resisteva. Voleva capire se, col pretesto di una cosetta intima, non si tentasse di imbarcarla slealmente in qualche diavoleria in pompa magna e cercava invano di sapere chi fossero gli altri commensali. «Vieni, vieni», incalzava Zenaide, vantando le squisitezze che ci sarebbero state a colazione. «Mangerai una purea di castagne, non ti dico altro, e ci saranno le 7 sfogliatine alla Reine». «7?» sbottò Oriane. «Allora vuol dire che saremo almeno in 8». Trascorse qualche istante, dopodiché la principessa, afferrata all'allusione, esplose in una risata fragorosa come un tuono. «Ah, saremo in 8! Che meraviglia! È così ben redatta!» esclamò, recuperando in uno sforzo supremo la locuzione cui era ricorsa anche Madame d'Épinay e che stavolta si adattava meglio. Orian, è molto bello quello che dice la principessa. Dice che è ben redatta. Ma, mio caro, non mi state facendo nessuna rivelazione. So benissimo che la principessa è molto spiritosa, replicò Madame de Guermantes, che gustava facilmente una battuta se veniva da un'altezza ed era in lode del suo proprio spirito. Sono fiera che Madame apprezzi le mie modeste redazioni. Veramente non ricordo d'aver detto quella frase, e se l'ho detta era per adulare mia cugina, perché se c'erano le 7 sfogliatine, gli sfogliatori, se così posso esprimermi, dovevano superare la dozzina.